sotto la basilica di Santa Croce. Per lungo tempo le cantine della Basilica di Santa Croce furono utilizzate come deposito e negli anni 30 nacque l'idea di convertire la cripta in un monumento ai caduti. In primo luogo è stato eretto un memoriale composto da 37 sepolcri per coloro che hanno perso la vita a sostegno del fascismo. Il 27 ottobre del 34 fu inaugurato il sacrario ai caduti fiorentini per la rivoluzione fascista, 12° anniversario della marcia su Roma. E in occasione della visita di Hitler a Firenze nel 1938, nella cripta furono eretti altri due santuari. Uno era dedicato ai soldati fiorentini che avevano perso la vita durante la conquista dell'Etiopia nel 1935-1936, e l'altro ai fascisti caduti nella guerra civile spagnola 36-39. Quando venne Hitler, proprio per fargli visitare questa cripta, addirittura fu aperta una porta al lato della basilica, che ora vi faremo vedere, con la porta con la scritta e Hitler Quella dietro. Santa Croce, Sì, guarda la la Santa Santa Croce. Croce. Apposta per farlo entrare direttamente nella cripta e uscire. Guarda, sto cercando. Fosse rimasto, questa. Lei si vergognava andare a fare le foto. No, io mi vergognavo in una maniera a fare le fotocopie di questa roba, è stato un dramma. Questa è Hitler. E Ecco un questo è il sacrario, vergogna, io non sono andato, la sono rimasto cripta, fuori. una vergogna, Salve, vai. vogliamo fare delle No, fotocopie. sai, per un corso, quello. Hitler, cose. Vai, Meno andata male che era la organizzata, no? Sì. Ci torno più, infatti sono andata in uno, è un mio Questa è noce, non avevo mai l'inaugurazione. Questa è l'inaugurazione. Questa è l'inaugurazione, l'avete vista? Vabbè, questo è E questa è l'uscita di Hitler. Quindi E la cripta, cioè, di sono Santa ancora Croce, quindi guardando la lì. facciata sulla sinistra. Esatto. Dove è tutto lungo, dove Esatto. Ah, La cripta, che esiste ancora, viene aperta al pubblico solo in occasioni di commemorazione, per esempio il 4 novembre. Queste invece sono due foto, se preso come esemplificative anche queste. Una è questa. Non la posso dire. È la tipica. E l'altra è questa. Questa è un'impiccagione di partigiani. Si chiamavano Arvegnoc, i partigiani etiopi. E questo appunto è uno dei passaggi, diciamo. Tra l'altro, mi sembra il 13 di febbraio, a metà di febbraio, c'è una delle feste più importanti in Etiopia, che è quella, cioè non delle feste, dei ricordi più importanti in Etiopia, che è quello che ricorda il massacro da parte dei, non solo dei soldati italiani, anche, si sono uniti anche i coloni italiani. Questo massacro ai danni di migliaia di abitanti da Giustaveva, furono uccisi diversi, anzi, la stragrande maggioranza furono uccisi a bastonate, così semplicemente perché erano etiopi e perché alcuni giorni prima ci fu un tentativo di assassinio di Graziani, che era il viceré e quindi il responsabile principale del governo italiano in Etiopia. E appunto in seguito a questa vicenda da parte di due persone, furono mi sembra dalle 3.000 ai 5.000 assassinati da parte degli italiani, truppe e civili, che si scagliarono contro la popolazione da Addis Abeba. Un altro massacro di quelli diciamo più in cui l'Italia è stata sottoposta, insomma, è stata messa al Tribunale per i crimini contro l'umanità, è quello di Debre Libanos, dove furono uccisi, mi sembra, 250 appartenenti ai clero etiope, perché sostenevano gli italiani che il clero etiope dava retroterra ai partigiani etiopi. E quindi questo era un monastero in cui c'erano in particolar modo novizi, e fu chiuso il monastero e fu incendiato, insomma, e chi non morì bruciato fu finito appunto dall'esercito italiano. E questo è il massacro di Debre Libanos. Tra l'altro, non so se sarà a far vedere ora le foto, ci abbiamo anche alcune foto che abbiamo scattato noi quando siamo stati in Etiopia, e che fanno proprio vedere come la storia da parte nostra sia mistificata. Per esempio, qui c'è la foto dell'obelisco, è nella piazza principale di Addis Abeba, in cui appunto viene ricordato questo massacro degli abitanti di Addis Abeba da parte degli italiani. Che è questo qui. L'alba di Ciro, c'è il leone di Ciro. Vabbè, questo si dice prossimamente. Nulla, si pensava fosse più caldo, e quindi un momento un po' più. Questa è la foto, perché tra l'altro a Addis Abeba c'è questo museo, è il museo d'antropologia, di storia e antropologia, che è stato costruito, fondato specialmente per Lucy. Lucy è chiamato così amichevolmente, diciamo, quello viene considerato il primo esemplare della razza umana. È una pischellina, 1,10 m, 1,20 m, è così, però è il primo esemplare della razza umana, e questo per dire che la storia parte da lì, la storia dell'umanità, cioè non da qui, parte da lì. E all'interno di questo museo c'è, appunto, essendo un museo di antropologia e di storia dell'Etiopia, si parte da lì e si finisce ad ora. E ci sono, per esempio, questa è la foto di partigiani etiopi con i capelli quasi rasta, insomma, da qui si può vedere, insomma, l'evoluzione della capigliatura è quella, insomma, che si vede ultimamente così rasta. Questo, per esempio, io ve le passo, questa per esempio è una cosa che, vedendola così, anche io e Leo ci sarà più che anche però questi sono i 14 gradini, 15 gradini che stanno a simboleggiare da parte fascisti l'era fascista. Così. In vetta loro, siccome appunto dopo si fermarono lì con la conquista dell'Etiopia, ci hanno messo l'Etiopia, il leone di Giuda, che è il simbolo principale, diciamo, il simbolo che rappresenta l'Etiopia e che per loro rappresenta, diciamo, il fermare, insomma, no, la conquista del territorio etiope. Questo sono io, insieme a quella all'epoca c'avevo 95 anni, che mentre io e lei si camminava lì a Addis Abeba, penso ci abbia sentito parlare in italiano e ha cominciato Mussolini fascista e bla bla bla, giustamente. Poi ci siamo fermati, mi stringe la mano proprio convinto, perché gli si era un po' spiegato un po' le nostre idee e così via, e tutte le medaglie, questa roba qui, perché uno degli ultimi, l'equivalente ai nostri partigiani, no? Qui c'aveva 95 anni, quindi era il 2015, era del 20, del 30, e nel 40, sì, nel 40 del 44, insomma, uno dei combattenti più giovani della resistenza di Dio. E parlava ancora bene l'italiano, giusto appunto per capirci e insultare il colonialismo italiano, sostanzialmente. C'è il leone di Ciudad e dappertutto. Questo invece, sempre per parlare della storia che viene negata, in questo caso dell'Etiopia, è l'obelisco dal Sum, una roba di 4-5 mila anni fa, che gli italiani depredarono, fu portato, smontato, mi sembra in piazza di Porta Pia, lasciato lì nel mezzo in mezzo al traffico, fu preso semplicemente per privare un paese di quella era la loro storia, perché in realtà in Italia fu messo semplicemente al centro di una piazza come un trofeo coloniale sostanzialmente. Ed è stato restituito dopo che loro si sono incazzati veramente, proteste e così via, alcuni anni fa, ora non mi ricordo l'anno di preciso, però mi sembra una decina d'anni fa, mi sembra in quello era il 2000, perché in Etiopia hanno un calendario un po' tutto suo, mi sembra siano 13 anni, 7 anni di differenza. 7 anni. Siamo 7 anni di differenza, perché il calendario della Chiesa copta Etiope. E tra l'altro c'è uno sfalsamento non solo degli anni ma anche dei giorni, dei mesi, tant'è che noi si era lì a settembre e era il capodanno per loro, mi sembra. Sì. E comunque appunto fu reso, in quello era il loro 2000, quindi nel 2007, dopo che dai 37 era lì in piazza di Porta Pia, cioè semplicemente così sostanzialmente, mentre per loro erano dei simboli, diciamo, della loro storia. Quindi il depredamento era semplicemente, non in questo caso, non un discorso economico, era semplicemente un discorso storico-culturale. Gli si leva semplicemente per continuare a sostenere che non erano niente prima che si arrivasse noi.